Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Noemi e sempre di più Noemi. Cioè, noi dovremmo parlare di un missile che la Corea del Nord, governata da un pazzo affamatore del suo popolo, ha tirato e che ha provocato un terremoto di magnitudo 4.5 scala Richter. Oppure potremmo parlare, non so, il Papa ieri è stato a Cassino e ha parlato della crisi economica, della cassa integrazione. Oppure potremmo parlare di tantissime altre cose. C'è Bernardo Valli che passeggia per le vie di Baghdad. Bernardo Valli è un inviato di Repubblica che ha fatto grandi campagne contro la spietata guerra americana in Iraq e adesso racconta che, insomma, a Baghdad si sta un po' meglio, c'è libertà. Senza Saddam si può vivere, con un certo accrescimento anche della qualità della vita, e forse l'Iraq risorgerà nonostante la spietatezza e la clamorosa ottusità degli errori dell'amministrazione Bush. Potremmo parlare di tantissime cose, politica estera, politica interna, economia, crisi. Invece dobbiamo parlare di Noemi, ci tocca parlare di Noemi. Questa è la cronaca, questa è la prima pagina, questo è ciò che ci viene ammannito come vero contenuto delle principali dichiarazioni politiche. Franceschini fa una dichiarazione al minuto su questo. La Chiesa Cattolica è infuriato, almeno pezzi delle gerarchie e del giornalismo politico cattolico, i Paolini, il cattolico di sinistra, soprattutto la Bindi, Enrico Letta, dicono disgustoso, eccetera. Cosa è successo? Beh, è successo che ieri, domenica, Giuseppe D'Avanzo, valoroso giornalista investigativo, e Concita Sannino, anche lei valorosa cronista investigativa da Napoli e poi la scopritrice del grande scandalo di Noemi, hanno intervistato un fidanzato di Noemi, e questo fidanzato di Noemi ha detto che sì, che a un certo punto si è stabilito un contatto tra lei e il Presidente del Consiglio, che sempre alla presenza dei genitori o comunque con la loro autorizzazione, in occasioni pubbliche come pranzi eccetera, il Presidente del Consiglio ha fatto un po' il mentore di questa ragazza. Il Presidente del Consiglio fa il mentore di tante ragazzine, è una specie di pater familias del mondo della televisione commerciale, adora circondarsi delle belle ragazze, fare delle feste in casa sua. Tutto questo può essere più o meno commendevole, ma insomma fa parte della sua vita privata, finché non si dimostri che stupra le minorenni come il Marchese de Sade nel suo castello, e mi sembra insomma che non siamo in questa situazione. E su questo, diciamo, si costruisce la notizia, si costruisce la cronaca politica, si costruisce lo scontro tra le fazioni. Quel ragazzino, quel fidanzatino, ha detto, diceva, poi la trattava come un padre, aveva un atteggiamento molto paterno, si informava sugli studi, eccetera. Insomma, adesso ognuno può pensarla come vuole. Però devo dire, insomma, le responsabilità del fatto che noi oggi siamo costretti a parlare di Noemi non sono ipocrita, Veramente non avrei voluto parlarne fin dalla prima trasmissione, non solo perché sono anche personalmente imbarazzato, essendo amico di Berlusconi, insomma, e poi tutto sommato amico di me stesso, amico del mio paese, amico delle donne italiane, della loro dignità, amico di Veronica Berlusconi, insomma, sono molto implicato in questa faccenda e quindi sono anche un po' imbarazzato, non vorrei parlarne, non sono ipocrita. Invece bisogna parlarne, perché forse dobbiamo trarne una lezione rovesciata rispetto a quella che le convenzioni correnti e un certo modo di pensare le cose ci suggerirebbero. Una lezione seria, rigorosa, vera, che sa stabilire la differenza tra il sobrio, il severo e il frivolo, e poi il criminale o lo scandaloso. Sono tre categorie diverse. La responsabilità per tutto questo se la dividono per metà Berlusconi e i suoi persecutori. Berlusconi perché effettivamente, insomma, potrebbe stare un po' più attento a difendersi dall'aggressione del pettegolezzo, quindi potrebbe essere meno esibizionista, meno narcisista, insomma potrebbe concedere qualcosa a ciò che gli richiedono, non stare in quella vita fiabesca che ti sei costruito, fatta di soldi, di immagini, di televisione, eccetera eccetera, di spettacolo. Sei un uomo di Stato, qualche piccolo omaggio alla diciamo, alla virtù, partendo anche dalla, come dire, dalla liceità dei capricci privati, forse Berlusconi dovrebbe farlo. D'altra parte, però, sono ignobili quelli che creano il caso e poi dopo dicono: ah, quanta poca sobrietà, ma che vergogna, stiamo sempre a parlare di pettegolezzo, di ragazzine, eccetera. E diciamo la verità, l'avete voluta, la state costruendo, la morbosità l'avete introdotta voi, le vostre domande non sono chiare, sono oblique. Al Presidente del Consiglio non dovete domandare i suoi fatti privati, dovete solo domandargli: lei è fidanzato di minorenni? Seduce le minorenni? Le porta a letto? Sì o no? E siccome, insomma, mi pare che la risposta sia no, ma la domanda non è stata neanche formulata, quindi bisogna parlare dell'autista di Craxi, sparare balle, difendersi, proteggersi. Siccome la domanda non è stata formulata, tutto diventa ipocrita, melmoso, fangoso, e diciamo il moralismo, come sempre, produce il suo esatto contrario, l'immoralismo. L'immoralismo in particolare della stampa. Questa è la mia opinione, ma naturalmente sono qui per essere contraddetto, come tutte le mattine. Bene, la storia di Noemi e di Barba Blu. Da dove cominciare? È un po' complicato. Secondo me, insomma, la vera domanda... noi abbiamo avuto la deputata del PDL, Melania Rizzoli, che ha detto l'esplosione di questo scandalo ha in realtà travolto la dignità delle donne italiane, delle parlamentari in particolare, nel senso che da tutto il mondo si guarda all'Italia come appunto un paese molto poco sobrio, in cui in modo parecchio ubriaco ci si aggira intorno a temi appunto che sono la sessualità dei maschi, il modo di esprimerla, il macismo più o meno galante. Insomma, tutta questa roba qui, di chi è la colpa? Secondo Melania Rizzoli la colpa è della moglie di Berlusconi. Questo mi sembra un po' forte, francamente, perché insomma la moglie di Berlusconi è solo la moglie di Berlusconi, che già è un mestiere piuttosto duro, faticoso da fare, no? Non so, Ida Domenichiani cosa ne pensa di questa accusa? Buongiorno. Che ridicola. Naturalmente penso che sia ridicola, è un rovesciamento bello e buono, cioè la signora l'onorevole Rizzoli non si interroga su chi abbia prodotto questa situazione, ma semplicemente dà la colpa a chi l'ha scoperchiata, mi sembra... Ecco, però chi ha prodotto questa situazione? Perché sarebbe facile rispondere tutta colpa di Berlusconi, oltretutto sarebbe anche politicamente utile per i suoi avversari. Io, che sono suo amico, non sono suo avversario, ho dichiarato, lo dico, amico non servile, dico quello che penso da sempre, però sono suo amico, dico, ma non è che è proprio tutta colpa di Berlusconi, metà colpa di Berlusconi c'è, perché lui è un po' esibizionista e narcisista e scherza troppo con questa storia del sesso, delle ragazze, dell'harem, delle festicciole, insomma dovrebbe essere appunto più sobrio, ma l'altra metà della colpa, se non un'antichia anche più della metà, è di chi costruisce, diciamo, una specie di offensiva moraleggiante, feroce, contro, diciamo, le galanterie, le battute, le barzellette e i gusti e i capricci, pieni di candore e letizia, come dice Ruggero Guarini, di un super italiano medio come Berlusconi. Non è che poi gli altri italiani non pecchino in parole, come si dice, omissioni ed opere. Ecco, no, appunto, peccano anche gli altri. Però lui è capriccioso ed è in vista, e quindi tutto questo crea il cortocircuito. Non crede Domenichiani? No, guardi, Ferrara, no. Io non lo credo per niente proprio questo. Naturalmente io non penso che sia solo colpa singolarmente dell'onorevole Berlusconi, perché ovviamente lui ha avuto molti complici in questa vicenda, nella costruzione di questo sistema, diciamo, che lei chiama di galanteria e io chiamo da sempre, insomma da quando è scoppiata questa bolla, che io chiamo di uso improprio del corpo femminile a fini di divertimento dell'imperatore, citando in questo naturalmente la signora Lario. Lui avrà avuto naturalmente moltissimi complici, per esempio viene fuori che un complice è il direttore di uno dei suoi principali telegiornali, no? Nel maneggiare questi book delle ragazze, portarli, farglieli sfogliare. Secondo la testimonianza di Gino Flaminio. E poi non parlo neanche soltanto di complici soggettivi, qui chiaramente da anni si è costruita una specie di grande controffensiva. Le faccio una domanda brusca: l'imperatore ha diritto di eventualmente avere delle fidanzate di 23-24 anni, ha diritto di fare una festa con una trentina di ragazze più tanti altri amici, i suoi fratelli, i parenti eccetera, di Capodanno, per tirarsi su il morale, chiacchierare, scherzare eccetera, o no? Assolutamente io penso di sì, ma noi abbiamo il diritto di dire che questo crea, diciamo, un modello di comportamento di relazioni tra i sessi che non è l'ultimo metro su cui si valuta la civiltà di un paese, che non ci piace? Sì, però tenga sempre conto che viviamo nell'era dello zapaterismo, però, non nell'era, cioè non siamo nell'Italia degli anni 50 con Pio XII che ci dice quello che dobbiamo fare. Ma a letto guardi, l'avete voluto voi un mondo diciamo un po' disinvolto, infatto, no, anche di sesso, abbiamo, e come no? Nel mio piccolissimo, un mondo più libero in cui anche le relazioni tra i sessi fossero più libere, però non ho voluto invece un mondo in cui questa libertà fosse nelle mani del potere e del potere politico, cioè qui non è che ci possiamo prendere in giro, non stiamo parlando di, non lo so, di un raduno hippie degli anni 70, stiamo parlando dell'uomo più potente d'Italia che usa potere e soldi per contornarsi di ragazzine. E gli dai passaggi in aereo fino in Sardegna? A me ne hanno colpito due cose. Vabbè, in qualche modo bisogna arrivarci in Sardegna. Se lui c'ha l'aereo, le invita sull'aereo. Io le ragazze le invito sulla mia automobile, una Ford Focus. Ognuno ha i mezzi che ha. Che vuol dire? Telefoni che dica: ma come, non mi riconosci? Se sapessi chi sono, e sono scherzetti da commendatore, su, vivono così milioni di italiani, dal nord al sud. Ferrara, come se lei non sapesse che... Mica tutti leggono le poesie di Rilke al telefono, le ragazze, via! Anche i commentatori. Non è che qua ci siamo svegliate per Silvio Berlusconi, sono tre anni vero. Che combattiamo che anche combattete contro i commentatori. Ah, benissimo, allora questo è vero. Beatrice Lorenzin, lei è nella scomoda posizione di essere deputato PDL e capo pure delle donne del Popolo della Libertà. Direi comodissima situazione, ecco. Non scomoda. Ma guardi, io... pensavo stamattina, sentendo anche il suo intervento iniziale, di fare un ragionamento più politico. Però la Diani qui mi ha proprio tirato un... mi ha alzato una palla che mi sento di provocatoriamente anche di ribaltare il ragionamento. Perché qui, a parte, lei parla di una situazione, vorrei capire quale situazione. Di una colpa del Presidente del Consiglio, quale colpa. E poi parla di un modello di comportamento in cui l'uomo... potente con i soldi concupisce giovani donne sprovvedute. Io mi chiedo, e qui però siamo veramente sul segno del possibile, se la Diani vive in un altro mondo. Domiani vive in un altro mondo, perché non so se voi avete mai visto un programma televisivo, è un telefilm che si chiama Gossip Girl, in cui le protagoniste di questo e i protagonisti di questo telefilm, che va in onda, insomma, a orari normalissimi, sono adolescenti tra i 17 e i 18 anni, il quale unico argomento di discussione fra di loro durante le giornate, tutti i figli dell'alta borghesia americana, è come divertirsi, come concupire, come sedurre, come vivere. E queste ragazzine sono tutte piuttosto, possiamo dire, adulte e spregiudicate. Allora, questo non è certamente un modello di società a cui noi aspiriamo, nessuno di noi lo vuole costruire, però non ci si può neanche svegliare dopo gli anni 70, dopo il femminismo, e dire: ah, siamo ancora in una società moralizzante in cui sì, sono per la liberazione della donna, però poi la donna che sceglie liberamente di frequentare o di accompagnarsi a chi che vuole è concupita ed è un soggetto debole. Chi che vuole è bellissimo, è un neologismo stupendo. Chi che vuole. Il punto però è un altro, mi è sembrato. Io leggendo anche sia le agenzie di ieri, i giornali di oggi, Franceschini che inneggia e fa proclami, il presidente Dario Spia credo che sia del direttore del giornale di Giordano. Penso che Dario Spia gli rimarrà addosso. Sì, e dice con quest'aria seria, no, proprio solenne. La sua solenne: ha il dovere della verità. Ora il dovere della verità, quale verità? No, la verità di Repubblica, devo dire una cosa, quella di Franceschini. Onorevole Lorenzin, il Presidente del Consiglio è imprudente. invece di stare zitto e di invocare la clausola della privacy, una volta che è stato, diciamo, incastrato tra virgolette, ma incastrato in cosa? No, incastrato tra virgolette a discutere di queste questioni invece di discutere del prodotto interno lordo di Gino, ecco, doveva dire: io, scusate, mi occupo di cose più serie. Invece va porta a porta e comincia a inventare una serie di balle pazzesche, l'autista di Craxi, eccetera. Perché dice quelle balle? Perché in quel momento non è il Presidente del Consiglio che fa la relazione sul missile nordcoreano o sui servizi segreti. In quel momento è semplicemente un vippone, very important person, al cubo, perché è il Presidente del Consiglio, che cerca di difendersi dall'aggressività, dalla villania e così dal tentativo di irrompere nella sua vita privata e appunto obbligarlo a stare 3 settimane a sulla storia di Noemi. Appunto. Tra l'altro, però le balle, capito? Siccome siamo un finto paese anglosassone, se tu dici delle balle, poi dicono: ah, qui convincono l'Observer, il Guardian, i giornali europei, eccetera, che qui c'è una clamorosa violazione, diciamo, del dovere di non dire bugie. Ma insomma, vogliamo tener conto del fatto che appunto è una storia. Lui non è stato accusato. Clinton dovette dire la bugia, quella sì, una... I didn't have sex with that woman. Non ho fatto sesso con quella ragazza. E invece si scoprì che aveva fatto sesso nello studio Ovale. E ne nacque un impeachment, dopodiché naturalmente questi gran puritani degli americani hanno fatto comunque il loro monumento a Clinton perché l'economia andava bene, punto, perché il mondo è poi fatto così. Però era la questione se aveva fatto sesso o no con quella ragazza. Qui non c'è questa vicenda. Non c'è, almeno la domanda non viene posta esplicitamente. E quindi c'è tutto un gioco di insinuazioni, di pettegolezzi ignobili. Ma posso dire Cazzullo, la cosa... che ne pensa lei? Ma io penso che... insomma, tutto nasce da quello che di Berlusconi ha detto sua moglie, quindi non Franceschini o Rosi Bindi. Sua moglie ha detto: io non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni. Ora si comincia a capire che forse queste non erano soltanto visioni di una donna legittimamente ingelosita. Ora io credo che il punto non sia tanto il fatto se Berlusconi frequenti o meno le minorenni, cosa a cui io credo nessun leader di un paese democratico sopravviverebbe, ma lasciamo perdere. E il fatto che questa frequentazione ha assunto anche una dimensione pubblica, cioè la minorenne ha di fatto fatto la First Lady a una serata, diciamo, di lavoro in una sede di rappresentanza ufficiale della Presidenza del Consiglio, quale Villa Madama, era l'accompagnatrice del Presidente del Consiglio. Erano insieme ad altre persone. A una serata di lavoro, insomma, in cui il Presidente del Consiglio faceva il Presidente del Consiglio, in una residenza della Presidenza del Consiglio, Villa Madama, insieme con imprenditori italiani. Nessuno dei quali ha smentito questo racconto, anzi, credo che alcuni di loro siano stati la fonte dell'autore di questo racconto. Era una cena con 100 persone. Non è il primo che passa, il vice direttore di Repubblica, Massimo Giannini, che ci ha raccontato questa storia. Ora, io non credo che un altro leader democratico si sarebbe comportato in questo modo. Perché? Perché la mattina dopo sarebbe finito in apertura dei telegiornali, perché l'opinione pubblica in qualche modo gli avrebbe chiesto conto. Io credo che se Berlusconi si comporta così è perché in qualche modo ha sviluppato un certo senso di impunità, di superiorità agli accidenti che possono accadere comune mortale. Sicuro, non sarà che Berlusconi invece è un leader anomalo? Perché non è un leader politico professionale. Stiamo dicendo la stessa cosa. Non è tanto l'impunità, è un leader anomalo. Però fa quello che gli pare. Un leader anomalo, certo. Io sono convinto che chi gli vuole bene dovrebbe consigliargli una maggiore prudenza. Io non credo che Berlusconi. Non c'è dubbio. Io non credo che Berlusconi pagherà pegno su questa storia. C'è una discussione in corso tra i giornalisti politici e i politici stessi. Alcuni sostengono che questa vicenda sia per Berlusconi un po' come la canotta di Craxi, no? Quando il famoso episodio del congresso socialista di Bari, quando Craxi apparve sudato, in qualche modo un po' stanco, la crepa del muro. Io non credo che sia così, credo anche che Berlusconi si accinga a cogliere un ampio successo elettorale tra non più tardi di 2 settimane. Credo però che questo suo atteggiamento di essere, come dire, al di sopra delle regole, delle convenzioni, al di fuori di ogni controllo, sia qualcosa pericoloso per lui e anche per il suo progetto politico. Bene, adesso noi dobbiamo interrompere per la pubblicità e riprendiamo con gli altri ospiti, che sono Letizia Paolozzi, anche Pierluigi Battista, che però è in treno, non so se è sotto una galleria. Insomma, la vita è complicata, è per tutti. Sobrietà, altro che allegria, sobrietà. Già, che poi la parola d'ordine del mondo di Berlusconi è allegria, non sobrietà, come dice Mike Bongiorno. Pensate se Mike Bongiorno avesse negli ultimi 50 anni fatto sobrietà dagli schermi televisivi. Ma non l'avrebbe visto nessuno, mai, nessuno guarda uno che invita alla sobrietà. È come se la sinistra avesse scoperto oggi l'anima di Berlusconi. Che invece è nota da tempo, dicono quelli di sinistra che lo odiano da sempre. Bene, sentiamo Laura da Lucca. Laura, buongiorno. Buongiorno caro Ferrara, allegria, sobrietà. Ci no, dica volevo tutto. Dire che se il nostro carissimo Presidente del Consiglio si comporta come un personaggio da telenovela, deve accettare che si parli anche di Noemi. E poi vorrei dire alla signorina Noemi di non parlare così tanto con i giornalisti del karaoke che fa con Berlusconi, che lo chiama Papi. Perché parla così tanto questa signorina? Potrebbe stare zitta, no? Secondo lei cosa dice? Per lei è un'esperienza da favola, un uomo grande, Presidente del Consiglio. E lei è stata così promossa, gli ha promesso ti farò fare una bella carriera, è andata dove c'erano le griff della moda. Insomma, si capisce che abbia un po', no? Non trova umano questo, Laura? No, non lo trovo male, perché soprattutto è anche stupida, perché se non faceva così poteva andare a fare la meteorina da Emilio Fede, ma così si è bruciata Ma forse farà la meteorina, più che la meteorina, so che farà la protagonista di un film, è stata presa da un regista, adesso non mi ricordo bene la storia quale sia. Ma lei è contento? Se fosse sua figlia, lei sarebbe contento? Contento, non lo so. Io ho i miei pregiudizi, diciamo, e le mie categorie morali, ma non voglio imporle agli altri. Mi hanno insegnato così tutti quelli che parlano male della Chiesa, dell'oscurantismo, dei suoi precetti, eccetera. Tutti stanno sempre a dire, ognuno fa quello che vuole. Quando Berlusconi fa quello che vuole, tutti dicono, vergogna, ci vuole sobrietà. Ma diciamo pure che siamo una massa di ipocriti quando ci comportiamo in questo modo, o no? Laura. Le donne sono puttane? No, non ho detto affatto questo e non penso che Noemi non merita certamente neanche un'allusione obliqua da parte sua di questo genere. Noemi è quello che mi risulta. Mi risulta fino adesso che questa ragazza ha avuto una candida e allegra storia di amicizia con un uomo molto più grande di lei, in compagnia peraltro dei genitori, che è sempre una cosa molto noiosa. Punto. Questo mi risulta. A lei risulta altro? A me non si può dire niente perché non c'è nessun testimone. Comunque, a me Noemi non mi interessa niente. Mi dispiace che sia caduto così. No, basso. Lei ha detto che è normale che si parli anche di Noemi perché lui vive come in una telenovela. E non sembrava un giudizio moralistico. Se adesso vuole fare propaganda moralistica, prego. Voglio dire, ma il signor Presidente del Consiglio, insomma, dovrebbe avere una certa, certezza. No, a lei sta bene un Presidente, poi oltretutto non ha il physique du role. Me stavano bene i partiti politici della Prima Repubblica, li avete mandati tutti in galera, plaudendo, facendo le tricoteuse, facendo a maglia, mentre Di Pietro, quel santuomo, quel galantuomo, quella persona piena di sobrietà, diciamo, faceva il suo lavoro sporco. A quel punto Berlusconi è stata la salvezza del paese, perché insomma ci ha impedito di avere il governo della polizia borbonica, insomma non è male. Comunque Laura, ognuno rimane della sua opinione. Ernesto da Roma? Sì, pronto, mi sente? Sì, certo. Niente, io, signor Ferrara, volevo dire che questi attacchi del centro-sinistra di stampo gossiparolo non fanno altro che aumentare la simpatia di Berlusconi degli italiani verso Berlusconi, perché lo vedono in antitesi a una categoria di uomini politici grigi, bigi, bacchettoni, oscurantisti e moralisti. E quindi invece lui, con questo atteggiamento da piacione, come si dice qui a Roma, perché di quello e solo di quello si tratta. Non trova che però è un po' imprudente? Non esagera qualche volta? Guardi, uscire da questi... Da questi tetri e cupi personaggi politici veramente grigi e bigi, non trovo altra definizione. Fa bene perché a questo si accoppia anche un senso di praticità e di capacità di efficienza. Okay, quindi, Aldo da Roma, grazie Ernesto. Aldo da Roma. Pronto? Sì, eccoci, la ascoltiamo. Sì, Ferrara, buongiorno. Velocemente, io sono un elettore di sinistra, trovo tutto questo, come dire, un po' sopra le righe. Si stupirà se le dico che fondamentalmente condivido la sua impostazione. soltanto forse se la Laria avesse fatto quella lettera privatamente ci avrebbe fatto Salvi di occuparci di questo tormentone. Le dico soltanto una nota: ieri eravamo a Villa Panfili, tutti gli elettori di sinistra, tutti quanti a leggere lo scoop su la querelle tra il presidente e la... cioè fondamentalmente forse si è scoperto un altro altarino. Siamo un popolo di guardoni e quindi quando ce ne dà l'occasione, e purtroppo il premier spesso col comportamento un po' sopra le righe ne dà l'occasione, tutti là pronti a fare. Ma poi avete fatto footing dopo, sì, avete corso, avete fatto sport lì a Villa Panfili, in parco. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Allora Claudio dalla provincia di Vicenza. Sì, pronto, dottor Ferrara, sì. Buongiorno. Eccomi. È un piacere parlare con lei. Grazie. Ma io volevo fare una piccola considerazione. Su chi sta tirando fuori queste notizie? Il quotidiano. Sì. Mi sembra che sia solo Repubblica che porta agli albori queste vicende. Beh, Repubblica diciamo traccia il solco, però poi c'è la spada di tanti altri quotidiani che lo difende. È vero, però diciamo che il trascinatore, i buoi è Repubblica, poi c'è il carro e che tira tutto quanto è Repubblica. E mi sembra che invece di interessarsi più di vicende di diciamo carattere politico o di cronaca, stia diventando un po' quei settimanali tipo Chi o Donna Moderna che vanno a farsi gli affari, diciamo, veri o presunti delle star. E in questa maniera mette, secondo me, rafforza comunque nei confronti degli italiani l'immagine del presidente. Bene, grazie, Trump. Grazie. Letizia Paolozzi, da questa prima carrellata di opinioni al telefono, che conclusioni trae? Ma dunque, traggo la conclusione che il ruolo del Presidente del Consiglio, a prescindere che sia o no Berlusconi, è un ruolo in questo momento molto in crisi, nel senso che un signore, nel momento in cui dice voglio spezzare i codici, voglio l'allegria, voglio essere diverso dagli uomini leader della Prima Repubblica che erano invece così, come dire, silenziosi, ovattati, peccatori nascosti. Silenziosi, diciamo. Ecco, tutto questo non lo voglio più fare, però poi rompe le regole, il gioco diventa rischioso. Se si supera un certo confine, io credo che uno si dà delle martellate sui piedi. Allora, sì. Lo dà al suo ruolo, a prescindere che ci siano, appunto, qui hanno parlato elettori di sinistra, probabilmente elettrici di destra, non saprei, ma insomma svalorizzare il ruolo che si incarna, perché questo ruolo c'è, è una cosa molto grave. Grave per un paese che, come lei ha detto all'inizio, avrebbe tante cose di cui parlare, ma tante cose serie in questo periodo di recessione, di difficoltà così grandi. Allora, che si fa quando un presidente del Consiglio va a Casoria invece di inaugurare un ospedale, un posto di polizia nuovo, una... Beh, veramente lui quello stava facendo. Anzi, sembrava una specie di ruspa umana, stava lì. Dove andare a... E vabbè, gli è capitato questo dramma personale e privato, che è il divorzio, come si dice, che però è stato trasformato con una fava. cioè, c'è uno dei due piccioni che non funziona. Poi senta, io devo provocarla perché a una giornalista femminista di antico lignaggio come lei, dunque Cazzullo ha scritto una rubrica, sperava che io non la leggessi forse, ma io l'ho letta, su Io Donna, nella quale dice sì, però anche ste ragazze, ste donne lo assillano, gli vengono portate su un vassoio d'argento dai genitori, e poi dopo insomma c'è un po' questa cosa che dovunque lui vada Insomma, perché non vi date un po' una regolata? La sobrietà mica solo da parte di Berlusconi, anche delle signore. Adesso non so se avrà il coraggio di ripeterlo qui alla radio. No, ma certo, io ricordo sempre l'episodio del famoso scambio di bigliettini il giorno dell'insediamento del governo, in cui Berlusconi manda un innocuo bigliettino, perché Berlusconi non è che sia innocente in questo caso, anzi, no, però no, a volte Berlusconi in qualche modo viene, non dico molestato, ma viene pesantemente corteggiato, gli battono i pezzi, tanto per usare un'altra espressione romanesca. Cito solo l'esempio di questo famoso scambio di bigliettini in aula, con Berlusconi che manda un bigliettino innocente alla De Girolamo e alla Gianmanco dicendo: ma se avete impegni galanti andate pure. E loro rispondono: Presidente, gli impegni galanti li accettiamo soltanto da lei. Adesso non voglio dire ribaltare con questo l'accusa sulle donne, dico soltanto che a certe volte io mi è capitato di seguire Berlusconi, è un gioco, gli infilano il bigliettino nella giacca, insomma cercano di affidano un messaggio alla scorta. Cioè, che cosa voleva fare con quel bigliettino proprio dal banco di Presidente del Consiglio? Relativizzare i costumi, i protocolli e la seriosità della politica, che non è il suo mestiere, perché lui è un imprenditore, lui vive in un mondo in cui le cose ammiccante. Che come no, in questo io citavo l'esempio del bigliettino, sì, per citare no, ma è interessante anche dal punto di vista di Berlusconi, è la stessa cosa delle feste con le ragazze, gli inviti. No, non è la stessa cosa, perché poi le feste con le ragazze no, anche perché in dico, che senso no? Non è la stessa cosa, perché anche perché? Noi qua non stiamo parlando di gossip. Io vedo, continuo a sentire questi interventi, dicono no, i giornali dovrebbero occuparsi d'altro. A parte il fatto che quando facciamo i focus group e chiediamo ai lettori cosa vorrebbero trovare sul giornale, loro rispondono sempre: più cultura, più inchieste, più reportage da sud-est asiatico. Poi giustamente andiamo tutti quanti andiamo a leggere le pagine sportive o le pagine su... Ma questo non è gossip, questo è in qualsiasi paese democratico al mondo la vita anche privata dei politici fa parte della politica. In Inghilterra si stanno decidendo sorti delle prossime elezioni su Gordon Brown, che mette in nota spese la pulizia dell'appartamento del fratello. Berlusconi stesso ci ha insegnato la centralità della propria persona e persino del proprio corpo nella politica, quindi questo non è gossip, questo è anche politica. Sarà l'aspetto forse deteriore della politica, quello di cui parlava Formica, ma è anche politica, è informazione anche questa. Paolozzi, le donne che sono troppo proclivi a accontentare i capricci dell'imperatore, cosa dice di questa diagnosi di Cazzullo? Dunque, la dividerei in due parti. Da una parte c'è quel fideismo, come dire, sessuato di Melania Rizzoli, in qualche modo anche quello che ho sentito della signora Lorenzin. Non si può essere in un partito politico, cosa che va benissimo con le sue idee, i suoi programmi, e poi avere questo amore così sterminato per il capo. Mi pare una cosa che non va bene per le donne, per la loro autonomia di giudizio, per il loro modo di muoversi, insomma, che è richiesto. Anch'io anche vengo da una famiglia comunista, sono stata abituata così. Ma non c'è, sono comunista, signora. No, non ma ho detto parlavo di me. Ecco, bisogna assolutamente trattenersi rispetto a questo amore per il capo, e questa è una questione. L'altra questione è quella delle veline. Io anche qui sposterei il discorso, poi ci sono i bigliettini che ricordava Cazzullo, ma sposterei il discorso al fatto che c'è una televisione dove le mani dei partiti e di chi comanda è tale che può decidere che una signorina di 16, 18, 25 anni, bella, va lì e ha una parte. Vabbè, ma lì però sono filiere e carriere, Paolozzi, lei naturalmente riconoscerà che praticano tutto lo spettro della politica. La Rai TV è dei partiti, non è che è di Berlusconi, su. Non è così. Ho detto, bisogna piantarsela con questa storia, certo. Le veline sono proprio il ponte, il passaggio, diciamo, dal quello che è lo spettacolo a quello che è il potere direttamente. Dominiani, non è che finiremo con una grande offensiva moralista che travolgerà tutto? Perché ho visto adesso si preannuncia Famiglia Cristiana con Don Ciortino. Oggi c'è un'intervista alla stampa del vescovo Alessandro Plotti. Insomma, si sta mobilitando anche la Chiesa Cattolica, le gerarchie, eccetera. Ho visto durissima la Bindi, durissimo Enrico Letta. Il mondo cattolico è inferocito, perché al mondo cattolico tu gli fai sapere che c'è si arrabbiano, no? L'allegria di quel tipo lì ai cattolici non piace, poi i cattolici di sinistra, e questi che ho nominato sono tutti cattolici di sinistra, Ciortino, il vescovo Plotti di Pisa, la Bindi e Enrico Letta, sono tutti cattolici di sinistra, dignitosissimi naturalmente, ed è legittimo che dicano quello che desiderano dire, però loro cosa fanno? Si scatenano proprio. Allora non è che finirà tutto con un grande così, festival moralista? È molto, è probabile, è una delle possibilità che ci sono, ma naturalmente qui non possiamo continuare a rovesciare l'onere della prova, come si direbbe in un linguaggio giuridico che non mi andrebbe neanche di adoperare, perché se la colpa invece che del sistema di cui Berlusconi fa parte delle ragazze, se la colpa invece che della pentola e di chi ha scoperchiato la pentola, eccetera, eccetera, rovesciamo tutto e si arriverà anche al rovesciamento moralistico che lei teme. Però Ferrara, il problema è che la morale è un campo di battaglia politico, non è che... Allora, la prima cosa da fare per evitare quest'esito che lei teme, che naturalmente temerei anch'io, è di impostare le cose un po' più correttamente. Non si può partire dicendo che tutto quello che sta succedendo fa parte semplicemente del gioco di uno che ha rotto le regole della vecchia politica dei partiti in doppio petto degli anni della Prima Repubblica, è perché se le impostiamo così la faccenda non ha alcun senso. Cioè, quello che sta succedendo è una rottura, anche, non volevo dirlo stamattina, ma me l'ha proprio tirata, di alcuni tabù che sono un po' alla base del vivere civile. Cioè, per esempio, i minorenni non guidano la macchina, non vanno a votare. Quindi non è che possiamo dire, come fa l'onorevole Lorenzin, che naturalmente la colpa è delle ragazze perché si offrono loro all'imperatore. Ma io non ho detto questo. Io stavo facendo un ragionamento culturale. Io spero che sia così. Io spero che sia così. Non mi sono mai addormentata dopo gli anni 70. Forse lei mi ha capito male. Non ho mai pensato che le donne siano vittime di alcunché. Però non si Ma è sicuro che i minorenni non possono guidare, non possono votare? Responsabilità morale tra un signore che si chiama Silvio Berlusconi e Noemi Letizia, perché c'è una chiara disparità di partenza. 800 24 00 24, ma siamo proprio negli ultimi minuti della nostra trasmissione. Le minorenni, vediamo un po' di mettere a tema questa questione. Io sono naturalmente dell'idea che una minorenne o un minorenne vadano sfiorati con il fiore della gentilezza umana, pedagogica, eccetera, o anche semplicemente parlando loro da amici con affetto, simpatia, eccetera, e che non possono essere usati o men che meno abusati in nessuna forma, né diretta né indiretta. Detto questo, anche perché se no mi arrestano, ma anche perché lo credo, volevo rilevare un piccolo fatto che a me sembra importante e volevo sentire il vostro parere, poi chiudiamo. Allora, un minorenne, secondo progetti di legge che sono all'esame del Parlamento e sui quali sono tutti d'accordo, deve potere a 16 anni guidare la macchina. Un minorenne deve potere votare a 16 anni, era una proposta di Veltroni, insomma una cosa alla quale si arriverà in breve. Una minorenne deve poter abortire senza neanche dire della cosa ai genitori, senza avere filtri, diciamo, è proprio l'autodeterminazione assoluta nell'uso del proprio corpo, l'aborto e anche perfino nell'uso del corpo di un altro, il bambino che ha generato. Una minorenne deve poter prendere la pillola del giorno prima e anche quella del giorno dopo, e forse gli va fornita gratuitamente a scuola, in modo che capisca bene che quando fa l'amore poi una minorenne è oggetto spesso di cicli di educazione sessuale che sono fin da età molto tenera. Allora, tutto questo ha determinato nel secolo di Lolita di Nabokov una trasformazione del significato di minorenne. O sbaglio? Ida Dominiani. Penso che infatti questa cosa è stata messa a tema, dopodiché penso che il paragone con Lolita sia utile per altre ragioni, e che adesso non c'è veramente tempo di affrontare, però le ricordo che appunto su Lolita si è discusso per decenni e che il problema anche in quel caso è stare attenti, appunto, tenere il senso delle proporzioni e non operare questo rovesciamento che mi preoccupa nella trasmissione di stamattina, proprio il rovesciamento dell'onere della prova e della disparità di partenza che c'è tra un signore settantenne e una signorina di 17 anni, e la disparità di potere oltre che di età. Chi è più potente in fatto, diciamo, di di allegria. Ma io non credo che nessuno abbia veramente, io non ho sentito nessuno invertire l'onere nella prova. Forse davvero non capisco cosa si riferisca a Domenichiani. Si riferiva a me che faccio un po' di sofismi nessuno. Per difendere io, Berlusconi. Mi prendo 10 secondi e poi mi taccio. Ma dagli attacchi ipocriti cerco di difenderlo. Non io perché resto convinto capo. Che il Presidente del Consiglio non dovrebbe frequentare i minorenni, a maggior ragione non dovrebbe farlo in pubblico, così come non dovrebbe, spero che non lo faccia, che non lo farà, fare affari approfittando del suo ruolo pubblico, non dovrebbe dire, questo purtroppo l'ha fatto, che i direttori dei giornali dovrebbero cambiare mestiere, non dovrebbe dire a una conferenza stampa a una giornalista o va via lei o vado via io. Ci sono tante cose che una persona che ha il senso dei propri limiti, delle regole e del fatto di non essere al di sopra delle leggi o al di sopra degli comuni mortali non fa. Io spero che le persone che gli stanno vicino lo riportino a questa dimensione, che sia anche quella che gli consente di dialogare meglio con gli elettori che tra due settimane si prestano. Guardi, a me quello che ha colpito, sì, poi dobbiamo chiudere, sarò velocissima, di questa vicenda è che tutto è stato scatenato dal fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia partecipato ad una festa di compleanno non della figlia di un rappresentante dell'alta borghesia milanese o del sud, ma di una persona umile che vive nella periferia di Napoli, e quindi un giornale di sinistra come Repubblica si sia interrogato del perché il Presidente del Consiglio dei Ministri va ad una festa di compleanno di una giovane sconosciuta figlia di nessuno. C'è stato un contributo, no? Di un membro della famiglia. C'è stato un contributo che però è stato successivo agli articoli di Repubblica. Allora, al di là di da dove nasce, chi è nato prima l'uovo o la gallina, sì. Diciamoci la verità, c'è un classismo sotto questi attacchi di Repubblica e sotto questa pruderia di alcuni intellettuali di sinistra insopportabile. Berlusconi, e lei lo conosce benissimo, meglio di me, da sempre, anche durante lo scorso governo, frequenta gente del popolo. Berlusconi è una persona che alla fine di un comizio, di una cena in un ristorante elettorale, si ferma a suonare la chitarra e a cantare con i camerieri. Cioè, lui è fatto così, questo è il suo carisma. Sono stati scritti anche da Calzullo fior fior di pagine di letteratura giornalistica sul carisma di Berlusconi, sull'uomo che si identifica col proprio corpo, sulla sua capacità. È accusato di essere populista. Lui è un populista come uomo che si incarna col popolo. Quindi anche da questo punto di vista, tutte queste discussioni, quale onere della prova? Qual è il reato? Qui non c'è reato. Quali sono le fonti? Le fonti è Repubblica, con l'inchiesta di D'Avanzo, che è un'inchiesta che sui giornali internazionali non avrebbe nessun appiglio, non perché vero, non c'è Beatrice, nessuna scusi, prova. E qual è la fonte? La fonte è una dichiarazione. Ma su cosa avete lavorato? Scusa. Qual è la colpa? Giustamente Ferrara diceva: domande non fatte, soltanto sussurrate. Diciamo che se Tony Blair avesse portato ai Checkers 30 o 40 ragazze per una festa di Capodanno con i parenti, con i fratelli, eccetera. No, e Cherry Blair, la moglie, avesse detto: Tony è un porco, un maiale, beh, insomma, lo scandalo forse sarebbe stato lo faceva, le ha fatti no, su da lo casole, scandalo ha delle basi comprensibili, quello che è incomprensibile. Ma è politico? Ha un valore politico? Secondo me no. Secondo è pubblico perché no. È pubblico perché sono persone, insomma, famosissime, ma non ha una valenza politica. No, non no. C'è la politica. Abbiamo fatto il nostro dovere, siamo ormai alle 9:57 minuti. Mi dispiace, non abbiamo più tempo. Ringrazio tutti: Beatrice Lorenzin, Aldo Cazzullo, Ida Domenichiani, Letizia Paolozzi, Battista è perso nei tunnel della Roma-Milano e non ha potuto esibirsi anche lui in questo piccolo festival di opinioni su una questione forse molto importante, forse senza importanza. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti e Peter Bescapelli, linea al giornale radio, poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Baci, a domani.